Papai, não sai, e vai, que sei, com noi, com tutti, com tempo. Fratello, guarda cosa hai fatto, guarda che ti sbagli, non essere così matto. Cammina per l'istante, ti ispirano, la testa alta, in basso e mano. Il basso che bomba, la bomba che abbassa, il ritmo che ti prende, che non ti basta. Dai, lascia il pesante, fratello, oh, dammi la mano, fratello, oh. Un nuovo giorno è arrivato, prendi la birra, bevila ad un fiato, prendi il cappello, tiralo in testa e vieni con noi, che c'è una nuova festa, la vita non è lunga, i problemi sono tanti, se rimarremo uniti sarà meno pesanti, rendi questo mondo più bello. Oh, dammi la mano fratello, sì, sì, sì, sì, sì. Noi stiamo facendo il rap del ghetto, pronto detto, presto fatto, perfeziona l'assetto. Il rap in mano nostra non è una cosa storta, e come dice il saggio, non perdere coraggio, cerca la fortuna e non aver paura, attacchi tari al muro e picchia sempre duro. Amico, disegna la pace con un grande pennello, e dammi la mano fratello, dammi la mano fratello, dammi la mano fratello, disegna con un dammi grande la pennello mano, fratello. A chi ti mette sotto, schiva il colpo e replica ad un botto. Rispondi potente, ricarica la mente, aggiungi alla pace un altro tassello. Porca, dammi la mano, troia! Fratello!